Il bene di tutti. Parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. No, non parleremo di politica. Ogni riferimento ad insetti che portano lo stesso nome di leader di grossi movimenti politici è puramente casuale. Avete letto Pinocchio da piccoli? Perlomeno conoscerete la versione che ne ha tratto Walt Disney nel 1940. Accanto al burattino di legno compare, pedante e noioso, il grillo parlante. Se Walt Disney l'aveva ritratto come un simpatico omino di mezza età, in fondo simpatico e incapace di resistere al fascino della fata turchina, con Lodi lo aveva reso insopportabile. Eppure, questo grillo parlante, una sua funzione ben precisa ce l'aveva. Era la coscienza supplente di Pinocchio, che lo ammoniva quando era in procinto di commettere il male e che lo esortava invece a compiere il bene. Avremo bisogno anche noi di un grillo parlante? Antipatico, certo, inopportuno forse, ma sicuramente ci sarebbe utile nel capire ogni volta dove stia il bene e dove stia il male. Perché consigliare a Pinocchio di andare a scuola e non fidarsi del gatto e la volpe è relativamente facile. Suggerire a una donna e a un uomo del 2013 che cosa votare, dove investire i propri soldi, come gestire i propri consumi e come educare i propri figli è già più complicato. In questa lunga carrellata di puntate, in questo anno e mezzo, abbiamo cercato di darvi qualche elemento a partire dagli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, che cerca di applicare il Vangelo, che rimane sempre quello, a una società che cambia di continuo. Abbiamo con noi in studio Don Marco Cagol, responsabile della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Grazie per essere con noi, Don Marco. Grazie a voi e ben trovati. Ecco, tutti noi abbiamo un grillo nella testa, questo grillo che ci guida, che ci spiega, ma noi la chiamiamo coscienza. La coscienza non per una persona qualunque, ma per un cristiano, che cos'è? Sì, prima di rispondere a questa domanda volevo proprio, come dire, sottolineare e complimentarmi anche con quello che hai appena detto, Andrea, perché parlando di coscienza, così anche con questa immagine singolare del grillo parlante, diciamo che siamo andati al cuore di quello che è proprio lo scopo e il senso profondo della dottrina sociale della Chiesa, della quale abbiamo parlato e avete parlato anche a lungo in questi mesi, in queste puntate di questa bella trasmissione. E visto che così oggi non abbiamo la voce fuori campo che legge il brano della dottrina sociale della Chiesa, voglio leggere io due o tre stralci che proprio fanno vedere il collegamento tra la dottrina sociale della Chiesa e la coscienza, se me lo permetti. E scopo principale della dottrina sociale della Chiesa, dice il compendio, è di interpretare le realtà della società, dell'economia, della politica, esaminandone la conformità o difformità con le linee dell'insegnamento del Vangelo sull'uomo e sulla sua vocazione terrena insieme trascendente, per orientare quindi il comportamento cristiano. La dottrina sociale si situa all'incrocio della vita e della coscienza cristiana con le situazioni del mondo e si manifesta negli sforzi che singoli, famiglie, operatori culturali e sociali, politici e uomini di Stato mettono in atto per darle forma e applicazione nella storia. Quindi, ecco, c'entra proprio, ecco, alla fin fine la dottrina sociale della Chiesa non è un prontuario di ricette, ma è una sorta di luce che viene gettata proprio sulla coscienza. Ecco, allora tu mi hai chiesto che cos'è la coscienza cristiana. Ecco, io la definirei così, ci sono tanti modi per definirla, io prendo la definizione di un teologo morale, anche noto qui in Italia, che dice che la coscienza è il punto di contatto fra Dio che chiama e l'uomo che risponde. Ecco, questo potrebbe essere la definizione, cioè il luogo dove avviene l'incontro profondo tra Dio e l'uomo, e in particolare tra Dio che chiama l'uomo a mettere in pratica di fatto il comandamento dell'amore, cioè il dono di sé, e l'atto in cui l'uomo delibera, ecco, la decisione di appunto di compiere questa chiamata. Infatti non è una voce che dà un comando che viene risposto in maniera automatica, quasi naturale, ma c'è sempre la libertà dell'uomo che accetta o meno di rispondere a quest'ordine, a questa chiamata. Qual è il ruolo della libertà nella coscienza di ogni individuo? Ecco, esattamente, la libertà è, diciamo così, l'elemento discriminante, ecco, proprio nella visione anche cristiana, anche se apparentemente nel cristianesimo, oppure chi pensa al cristianesimo in modo superficiale, pensa che il cristianesimo sia un insieme di precetti che vanno semplicemente obbediti come se fossero una serie di regole tutte già scritte. Ecco, in realtà lo specifico proprio anche della visione etica cristiana è proprio quello della libertà, cioè è sempre la libertà dell'uomo che è chiamata in causa, che è messa in gioco, e anche perché non esiste una tavola esaustiva di tutte le situazioni in cui la persona umana si ritrova a dover decidere come comportarsi. E le situazioni della storia, le situazioni, diciamo così, concrete in cui l'uomo si trova interpellano sempre la sua libertà. Ecco, e diciamo che in questo senso proprio la libertà è caratterizzante, e la fede cristiana, il cristianesimo, è una fede che esalta anche questa idea della libertà, ovviamente la inserisce dentro, ecco, il comandamento dell'amore, che però, ecco, nella sua attuazione chiede poi anche la fantasia, appunto, e la creatività dell'uomo. Facciamo un passo ulteriore: oltre alla coscienza i cristiani parlano anche di discernimento. Sì, ecco, il discernimento è una parola anche questa molto cara anche nella dottrina sociale della Chiesa, anche se non sempre esplicitata in questi termini, cioè di fronte a ogni situazione la persona appunto deve discernere, cioè deve, come dire, spacchettare, separare. Le situazioni sono spesso molto complesse. Ecco, il discernimento è questo lavorio della coscienza, questo lavorio che l'uomo fa per cercare di capire che cosa fare in quella singola situazione. Ed è ovvio che il discernimento si basa, ecco, su alcuni criteri fondamentali. Qual è il criterio fondamentale? Potrebbe essere il criterio fondamentale soprattutto in campo sociale. Potremmo definirlo proprio come un punto originario di partenza. Considerare in ogni situazione sociale, e qui sociale vuol dire in cui la persona è in relazione con altre persone, in una relazione semplice o in una relazione strutturata, considerare sempre l'altro mai come un mezzo e sempre come un fine. Allora questo diventa il criterio del discernimento. Discernere vuol dire in quella singola situazione che cosa significa per me, ecco, non considerare l'altro come un fine, come un mezzo, ma come un fine. Col discernimento, ecco, ci sono fiumi e fiumi di scritti, di intuizioni anche che i maestri anche di vita spirituale hanno portato, hanno scritto, quindi bisognerebbe fare così un trattato anche di teologia morale, di teologia spirituale, ecco, non ne abbiamo il tempo. Ecco, il discernimento è proprio, forse anche è una delle cose che manca oggi nella vita delle persone, e vorrei a proposito dire questo, perché potremmo dire così che il primo discernimento che è necessario fare, il primo livello potremmo dire in cui la coscienza agisce, è proprio scegliere di discernere. Il problema oggi, a mio modo di vedere, è che non è tanto che viene sbagliato il discernimento o che i criteri del discernimento della coscienza delle persone non è sufficiente, ma che si elude praticamente il discernimento, non si sceglie di discernere. Non tanto che risposte dare alle domande, ma porsi le domande. Bravissimo. Ci fermiamo qualche istante e torniamo fra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, è te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Manca sei, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso. Noi, da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa fare. Va bene d'amore c'è, solo Laura è la mia coscienza. Se vuoi ci amiamo adesso, oh no, però non è lo stesso. Ora so, c'è ancora il suo riflesso tra me e te. Mi dispiace ma non posso, Laura c'è, se vuoi ci amiamo adesso, oh no, mi casca il mondo addosso. E ora so, c'è ancora tra me e te. Mi dispiace ma non posso. Laura c'è, Laura c'è. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti, parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori al Bene di Tutti Parliamone. Siamo qui in studio con Don Marco Cagol, delegato vescovile per la pastorale sociale del lavoro, e stiamo affrontando il tema principe di tutte queste nostre trasmissioni: la coscienza e il discernimento per il cristiano. Abbiamo visto come sia importante ripartire dal porsi le domande e dal fare queste scelte, però c'è una legge fondamentale, un qualcosa che regola la coscienza e questo processo del discernimento a cui tutti siamo chiamati? Ma un po' l'ho già detto, diciamo che lo si può ridire in questi termini. Beh, diciamo, c'è stato chi, ecco, ha definito la legge fondamentale, la legge più profonda, ecco, della coscienza, in questi termini: fai il bene ed evita il male. Chiaramente questo modo di esprimersi può essere anche, cioè, va poi dopo, come dire, arricchito di contenuti, perché poi il problema è la determinazione del bene, cioè che cosa è bene e che cosa è male. Questa è la grande questione anche nelle singole situazioni, e probabilmente a volte la difficoltà anche che si ritrova nelle singole situazioni è proprio di capire dove sta il bene, dove sta il male. Ecco, ma prima dicevo che potremmo dire che in ambito sociale vale proprio questa legge fondamentale, cioè l'altro sempre come un fine e mai come un mezzo. E la difficoltà di verificare questa condizione e l'applicazione o comunque la realizzazione di questo criterio sta che molto spesso, diciamo così, le azioni sono così, le situazioni sono così strutturate, così complesse, così stratificate, che è anche difficile isolare, distillare quanto ogni singola scelta possa influire negativamente sull'altro o possa ridurre l'altro a mezzo piuttosto che a fine. Pensiamo per esempio nel campo dell'economia, cosa vuol dire questo? Nel campo della politica, cioè è sempre un lavorio molto, molto difficile, che chiede anche delle competenze di tipo tecnico, di tipo scientifico, di tipo economico, perché uno deve sapere, muovendo certe leve, che effetti provoca. Però dall'altro c'è bisogno proprio di in qualche modo avere sempre questo come, come criterio fondamentale, ecco. È un altro modo per esprimere la grande legge della carità. E del resto, detto ancora in modo più fondamentale, è come dire, quella condizione originaria, quella risposta originaria per cui l'uomo pensa a se stesso come dono di sé. E quindi è sempre in una posizione, è sempre in un atteggiamento, e ha sempre questo criterio di dire: la mia realizzazione, il modo migliore per rispondere alla chiamata di Dio è quello di fare di me stesso un dono, e quindi un dono per l'altro, e quindi nelle situazioni mai ridurre all'altro a qualcosa per se stessi, ma essere sempre se stessi come dono per l'altro. In parte già risposto alla mia prossima domanda: in un mondo in cui nulla è semplice, tutto è complicato, soprattutto non ci sono molto spesso delle scelte tra il totalmente sbagliato e il totalmente giusto, questo grigio, questo intermezzo in cui bisogna fare delle scelte senza essere sicuri di dove si andrà a parare, mi ha risposto sia con le competenze, sia avere il fine e il bene dell'altro. Sì, io aggiungerei anche un'altra cosa: a volte si ascoltano tante persone che nelle situazioni proprio della vita, anche politica, economica, sociale, lavorativa, avvertono fortissimo la difficoltà di dire: ma che cosa vuol dire per me essere coerente, essere un cristiano coerente? A volte mi sembra quasi impossibile, perché le strutture in cui sono inserito sono talmente complesse, a volte anche così talmente costringenti, che mi sembra che di non riuscire a essere perfettamente coerente con quello che io avverto dentro come una chiamata alla coerenza, alla carità, all'amore, alla solidarietà. E quindi sentono forte questa tensione. Ecco, diciamo così, il cristianesimo non è una religione, non è una fede che ci chiama ad una sorta di perfettismo o perfezionismo morale, cioè nella vita, nella storia, la coscienza o la scelta comunque ha sempre un minimo di rischio, ecco. E chi non sceglie mai è chiaro che non sbaglia mai. E a volte il pretendere di agire solo quando si è nella possibilità di fare la scelta assolutamente, totalmente perfetta, rischia di non farci mai agire e non farci mai scegliere. Allora, secondo me, la maturità anche spirituale di un cristiano sta nella capacità anche di portare una certa tensione morale. E quando si ha l'impressione che quella scelta non è stata una scelta perfetta dal punto di vista del comandamento dell'amore, e portare dentro anche una sorta, cioè mantenere vivo anche, io lo chiamo così, il dolore di questa fatica, di questa apparente incoerenza, perché quel dolore, quella tensione è quella che ci permette il giorno dopo di ricominciare, di riprovarci, di lottare per non essere più costretti a fare una scelta non perfetta. Quindi non bisogna, ecco, pensare di poter agire solo quando tutto è chiaro, tutto è perfetto. A volte bisogna anche mettersi davanti a Dio e chiedere il massimo della luce, e poi in qualche modo essere coraggiosi, e il giorno dopo ricominciare. Se una scelta non ci pare perfetta, è un motivo in più per il giorno dopo per farla meglio. La capacità di portare questa tensione morale non è scontata. Il meglio nemico del bene, insomma. Sì, potremmo dirla così, anche se poi bisogna, ecco, precisare, sì. Ma comunque è una buona sintesi. Abbiamo 30 secondi, e abbiamo sempre parlato di discernimento come una scelta personale dell'individuo che di fronte a un dilemma in qualche modo opera per il bene pur non avendo tutte, le certezze di questo mondo, però esiste anche un discernimento collettivo. Un discernimento io lo chiamo comunitario, è quello con cui una comunità cristiana si mette in ascolto della parola, in ascolto della storia, e cerca di trovare una sintesi anche sia per se stessa, per come essere comunità nel mondo e nella storia, e anche per in qualche modo arrivare a essere sentinella, profezia, ecco, per dire una parola illuminata al mondo, alla storia che la circonda. Grazie Don Marco per queste sue parole. Grazie a voi. e invitiamo anche gli ascoltatori a tenerle care e a portarle avanti. Grazie ascoltatori per essere stati con noi, potete ritrovare tutte le nostre puntate sul sito internet di Blu Radio Veneto. Da Andrea Cantone è tutto, vi auguro buona estate. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone, rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.